Ciao, pronto, ci senti? Pronto, Pronto? ciao. Pronto, ciao. Ciao, scusa il ritardo, eh. Tranquillo, tranquillo. Allora, niente, come detto, dicevamo questa parte di puntata è dedicata un po' agli studenti, alle studentesse medie ed universitarie di Milano che stanno provando a costruire ed organizzare iniziative e costruire percorsi di lotta. Prima abbiamo sentito due compagne che parlavano dell'alternanza scuola-lavoro e ora invece proviamo a farci una chiacchierata con te riguardo il lancio del corteo che ci sarà il 19 febbraio e se voglia poi di dirci anche due parole su come si è creato, insomma, questa rete di studenti contro il Green Pass a Milano. Ma noi come movimento nazionale siamo nati il 6 di agosto, mi pare, quando sono uscite le disposizioni sull'ingresso del Green Pass per l'università. Da quel momento siamo iniziati a nascere, prima su Telegram e poi conoscendoci ai cortei dal vivo, e poi da lì è nata poi la nostra assemblea che si tiene ogni settimana qui a Milano, che ormai comunque sta sviluppando anche una rete con altre realtà cittadine. Ovviamente siamo nati principalmente come oppositori del Green Pass, uno strumento che non riteniamo assolutamente sanitario, ma più che altro politico, e quindi è anche interessante vedere che nel nostro movimento siamo assolutamente eterogenei, sia di orientamento politico, ma di qualsiasi cosa, c'è cioè un miscuglio, però propositivo, diciamo, non accozzaglia, però invece proprio persone che sono ritrovate anche da lati diversi, però a ritrovare contro questa misura un'unità politica. E questo è stato molto, molto bello. Ok, invece, insomma, se ci vuoi parlare un po' di iniziative passate che ci sono state e, insomma, di come si è arrivati alla costruzione di questo corteo del 19, se ci vuoi parlare anche un po', insomma, di questo momento che ci sarà sabato prossimo a Milano. Sì, come ho detto, noi ci siamo conosciuti in piazza, proprio la nostra assemblea si è ritrovata per la prima volta, i cortei che sono partiti ad agosto e poi sono andati avanti fino a dicembre, ed è proprio lì che ci incontravamo ogni settimana per portare avanti le nostre idee, e abbiamo incontrato anche il resto della cittadinanza. Purtroppo, come sappiamo, a Milano poi questi cortei hanno subito una repressione abbastanza forte da parte della questura, sono stati impediti, sono state schedate centinaia di persone, fino al punto, ad arrivare al punto che i cortei non sono più partiti per quasi 2 mesi ormai, se non cose brevissime a dicembre, però ultimamente sono stati solamente presidi statici, e quindi abbiamo pensato proprio per questo che, guardando anche a livello internazionale come la situazione si stia mobilitando in altre parti del mondo, di provare anche noi qua a rilanciare un movimento che comunque era ormai consistente a Milano, tutto spento e silenziato, però di provare a ridargli vita con una nuova manifestazione, con un nuovo corteo. Quindi è per questo che il 19 ci ritroveremo alle 3 in piazza Leonardo da Vinci, luogo anche simbolico perché faremo un corteo da università all'università, essendo noi universitari, quindi provare a riportare in piazza tutta la cittadinanza che purtroppo è stata reclusa negli ultimi mesi all'Arco della Pace o in altri posti molto poco visibili. E quindi vogliamo provare a ridare forza a quello che era anche in passato. Poi, noi come assemblea abbiamo, cioè, oltre a partecipare ai cortei, abbiamo fatto anche molte iniziative sia in università, anche in altri luoghi. Abbiamo invitato vari professori universitari, ma anche esponenti. Ad esempio, abbiamo invitato Nardo, il presidente dell'Ordine Avvocati di Milano, per parlare della situazione delle manifestazioni. Comunque creiamo costantemente questi eventi per creare una coscienza politica, ma anche su altri temi, tutto quello che circonda il Green Pass e non solo. Infatti, il prossimo passo che come movimento stiamo facendo e di transizione è cercare di ampliare un po' il nostro spettro di rivendicazioni politiche. Infatti, di sicuro il 18 saremo in piazza con gli studenti liceali per manifestare contro l'alternanza scuola-lavoro e purtroppo anche contro l'altra morte che c'è stata proprio oggi, non so se è già arrivata la notizia, però quindi cerchiamo anche di allargare le nostre rivendicazioni ad altri argomenti al di fuori del Green Pass, proprio perché il Green Pass non è piovuto dal cielo, ma si colloca su una linea che viene da tante altre cose. Tu dicevi di oggi sempre una morte sull'alternanza scuola-lavoro? Come? Dicevi di una morte che c'è stata oggi, sempre Sì, sull'alternanza sì, sì. scuola. Ah, Oggi nelle questa. Marche c'è stato un incidente stradale di un ragazzo di 16 anni in stage. Quindi anche per questo proprio scenderemo di sicuro in piazza il 18 e porteremo questo tema con noi anche il 19. Quindi insomma si cerca di scendere in piazza per ravvivare un po' quello che è stata la lotta nei mesi precedenti contro il Green Pass, ma appunto come hai detto tu, provare anche a allargare un po' la questione, non Certo. tenerla solo al Green Pass, ma cercare di ampliare un po' il raggio d'azione. Va bene, Esatto, perfetto. Allora rilanciamo l'appuntamento di sabato 19 per il corteo che si snoderà per Milano e partirà alle 3:30 da Piazza Leo. E niente, ti ringraziamo per la disponibilità. Ci scusiamo se effettivamente poi il programma non è andato in streaming. Stiamo comunque registrando in diretta. Abbiamo avuto seri problemi di connessione. tranquillo, tranquillo. Grazie per lo spazio, anzi, Comunque faremo il sempre una buona podcast. cosa poter diffondere. Scusate ancora. E va bene, niente, dai, ti ringraziamo e ci sentiamo presto. Grazie mille a te per lo spazio. Buona Ok, serata. Ciao ciao. perfetto. Ciao, grazie mille. Ciao.